快乐假期现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有线调频98.6兆赫，欢迎收听。歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场。我是你的朋友古月，在今天的节目中，请欣赏斯泰方诺演唱的威尔蒂、普契尼、多尼采蒂、马斯内、博伊托等人的歌剧作品。 Tra le nicchie grande i santi e della Vergine una Madonna. E al sordo orecchio un tremulo vegliar d'invano piede appare e in tal stende alla mano. Arcai degli abituri l'uscio, un uomo Dio scagliava e contro gli uomini le lacrime dei figli. In cotanta miseria la patrizia prove che fa sull'occhio vostro esprime umanamente qui un guardo di pietà, onde io guardato a voi, siccome a un angelo, e dissi, ecco bellezza della vita. mistero, le diverse bellezze insieme confonde, ma nel ritratto sei il mio solo pensiero. Fanciulla, m'ascolta, testa charma tu la crête fait trêve nous sommes deux seulement Je viens de faire un rêve En fermant les yeux Je vois là-bas Une bleue Garde toujours. Thank you. Hey! in un carcere là qui me educava il deserto sol vivo perché ignota e mia regale stirpe i miei parenti sognarono nel trono e vide sto No!